Cari ascoltatori, benvenuti. Questo è Nerd Show 3 e 4, cioè due nerd show messi insieme per appunto ovviare al fatto che il feed non vi ha fornito una puntata lunga, nel senso che tutti e noi quattro nerdcastiani abbiamo cercato di divincolarci dai nostri impegni per creare una puntata lunga come al solito. Non ce l'abbiamo fatta, infatti sono da solo a presentare questi Nerd Show e quindi dovremo aspettare, credo, verso fine agosto, comunque settembre, per una puntata che comprenda tutti e quattro. Io sono Murtag, questa volta appunto vi parlerò di... possiamo dire quattro giochi e la puntata sarà divisa in due parti. La prima parte tratterà appunto di Mega Man X4, X5 e X6, appunto era in realtà uno speciale che avevo promesso avrei finito verso metà giugno, era già pronto in realtà, però non ho mai avuto veramente il tempo di registrarlo e quindi lo faccio adesso appunto per fare una puntata un po' più lunga che assomigli poi a una puntata normale, inserisco anche un secondo gioco nella seconda parte che appunto è Chrono Trigger. Bene, in apertura do subito i contatti del podcast. L'email è nerdocast@gmail.com, il blog www.nerdpodcast.blogspot.com, abbiamo un gruppo su Facebook, abbiamo tutti e quattro noi, io e i tre che al momento sono al mare, anche un account Twitter, il mio e quello in generale del podcast è Nerdfats. Quello di Malloman è appunto semplicemente Malloman, quello di Rampage è Wish Freedom, quello di Garriden è Devilseer 92. Comunque tutti questi contatti li trovate poi nelle note dell'episodio, spero di non aver dimenticato niente. E dunque un Nerd Show diviso in due parti che io mi sono permesso di chiamare 3 e 4 appunto. E in questa prima parte parleremo degli altri tre titoli di Mega Man, della serie X di Mega Man. Ci eravamo fermati ai primi tre titoli della serie X, adesso gli altri tre titoli, e si parla dunque di PlayStation 1. Abbiamo tantissima musica da ascoltare proveniente da tutti i giochi che vi ho appena elencato, quindi passiamo subito al secondo brano. Prima di passare al secondo brano però c'è da dire che il brano d'apertura che avete sentito al posto della sigla si chiamava Opening Theme X, proveniente da Mega Man X4. Un'altra soundtrack proveniente da Mega Man X4 che si chiama Searching for Light, e godetevela. いろんな戦いがあった。いろんな出会いがあった。そして僕は今、みんなの思いに満たされている。人間とレプリロイド、その命の重さに違いはない。僕らの命もまた、新しい命に受け継がれていく。僕は君たちと共に生き続ける。 Eravamo rimasti su Super Nintendo con Mega Man X 3, sempre in 2D. Con l'arrivo della prima PlayStation, Keiji Inafune, appunto producer di Mega Man, della serie X di Mega Man, si trova davanti una sorta di dilemma, cioè che fine farà il franchise di Mega Man X. Ovviamente continua, abbiamo altri tre capitoli della serie X di Mega Man su PlayStation 1, e le differenze dagli altri titoli su Super Nintendo sono davvero minime. Infatti l'organizzazione in 2D tipica di ogni Mega Man rimane, e questa scelta viene sia molto apprezzata che molto criticata, perché ovviamente Mega Man X4 sembra nient'altro che una copia continua di tutti gli altri Mega Man. Infatti non cambia quasi niente, se non a livello appunto di trama. Per il resto anche i movimenti dello stesso Mega Man alla fine sono quasi simili. Per ovviare, diciamo, alle poche differenze che ci sono fra i vari capitoli, Keiji Inafune propone di inserire anche Zero come personaggio giocabile oltre ad X, e diciamo con altri piccoli cambiamenti, come per esempio l'introduzione di un'altra armatura che è appunto l'Ultimate Armor. Diciamo che Mega Man X4 riesce a differenziarsi comunque dagli altri Mega Man precedenti. Mega Man X4 era stato pensato come il penultimo episodio della saga, e dunque diciamo che si può anche percepire dalla trama che un po' la saga sta per finire. In realtà poi vedremo come la saga continuerà fino addirittura all'X8 su PlayStation 2, che non sarà poi più diretto da Inafune. Appunto la trama vede sempre X e Zero combattere contro i Mavericks. A capo dei Mavericks c'è sempre il solito Sigma, che continuerà a apparire fino a, appunto, a Mega Man X8, cioè l'ultimo capitolo fino ad ora. E alla fine i meccanismi di, diciamo, di scontro coi boss è più o meno sempre lo stesso. Ci sono all'inizio del gioco 8 boss, e dunque 8 location da scegliere. Dopo aver battuto tutti gli 8 boss ci sono gli stage finali e poi appunto Sigma. La soundtrack viene data a Toshiro Oriyama, che non aveva partecipato alle soundtrack precedenti degli altri Mega Man X. È una soundtrack che a tratti è abbastanza debole rispetto ai tre precedenti capitoli di Mega Man X, ma comunque si difende molto bene. E appunto questo passaggio un po' generazionale, ma neanche troppo, della serie X da Super Nintendo a PlayStation 1 è caratterizzato comunque da un ottimo titolo, sia molto apprezzato ovviamente dai fan, che parecchio criticato appunto dalle riviste specializzate, dalla critica appunto. Il prossimo pezzo che vi propongo è un pezzo simbolo dell'intera serie di Mega Man X. Si chiama X vs Zero, non appartiene alla original soundtrack di Mega Man X4, ma fa riferimento a Mega Man X5. È un pezzo, io lo definirei importante per la serie, perché rappresenta un po', cioè uno dei pezzi epici, insomma, di questa altrettanto epica collezione di original soundtrack da parte di tutti gli episodi di Mega Man. Si chiama appunto X vs Zero. Fino ad ora le due che vi ho proposto, le due canzoni che vi ho proposto, erano molto lente e non è, insomma, da Mega Man. Questa invece è molto adrenalinica, quindi preparatevi, e eccola che arriva, a dopo. X vs Zero, del composer Naoto Tanaka, appunto composer di tutta l'original soundtrack di Mega Man X5. Mega Man X5 è un capitolo molto importante, arriva 3 anni dopo l'X4, sempre su PlayStation e anche su PC, come anche l'X4 poi arriva qualche anno dopo su PC. Il quinto capitolo della serie X di Mega Man, come abbiamo detto prima, doveva essere per Keiji Inafune, che è appunto il producer, il creator di questa serie, doveva essere l'ultimo capitolo. Spero di non spoilerare niente, però insomma ciò che doveva caratterizzare la fine dell'intera saga era appunto la morte di Zero, che avviene proprio alla fine del capitolo, del quinto capitolo. La stessa canzone che abbiamo sentito poco fa appunto rappresenta un po' uno degli episodi cruciali del capitolo, cioè i due protagonisti della serie fino a questo punto si scontrano e possiamo soltanto manovrare X contro uno Zero che diciamo sta diventando un Maverick, quindi sta passando dalla parte dei cattivi. Il gioco stesso comunque ha questa difficoltà a distinguersi da tutti gli altri Mega Man, per questo come l'X4 precedentemente anche questo viene criticato dalle riviste e dei giornalisti videoludici, diciamo, mentre viene apprezzato moltissimo ovviamente dalla nutrita schiera di fan che appunto vanta questa serie ancora oggi. Le differenze, a dire la verità, sono molto minime alla fine. Vengono introdotti degli elementi di gameplay alla fine molto riempitivi, come più armature sia per X che per Zero. E una particolarità comunque del gameplay è che il gioco deve essere finito in 16 ore. In realtà non sono veramente 16 ore. Ogni volta che si fa un livello, dunque un boss, un'ora passa e dunque vengono scalate pian piano queste 16 ore. Perché queste 16 ore? Perché la trama vede diciamo questa colonia detta Eurasia che sta per andare a schiantarsi sulla Terra e distruggerla, e dunque sono 16 le ore che dividono lo schianto appunto di questa colonia Eurasia sulla Terra. E sono appunto 16 ore in cui tutta la trama si deve svolgere e in cui i protagonisti devono trovare un modo per evitare che tutto ciò avvenga. E un altro elemento comunque caratteristico di gameplay è che i finali sono alternativi, non c'è un finale unico, vi sono fino a tre finali. Comunque la costante è che Zero deve morire appunto alla fine del gioco, mentre X continuerà a combattere contro i Mavericks. Appunto la fine della saga doveva essere appunto questa, cioè la morte di Zero. In realtà, come sappiamo, vi sono altri tre capitoli della serie X e appunto Keiji Inafune non sarà più il producer degli altri capitoli. Questo perché Keiji Inafune stava già lavorando su la saga di Zero per Game Boy Advance, chiamata appunto Mega Man Zero o semplicemente appunto Mega Man X, Mega Man Z, che appunto si svolge su Game Boy Advance e vede la rinascita di questo Reploid leggendario che era appunto Zero. In realtà, come vedremo, Zero rinasce dal nulla praticamente in Mega Man X6 e sarà lo stesso Inafune a chiedere scusa perché appunto non prevedeva lui stesso nella continuazione della saga una rinascita di Zero. Un ultimo elemento abbastanza caratterizzante e molto curioso del capitolo 5, del quinto capitolo di Mega Man X, è che tutti i boss, gli otto boss iniziali, hanno nel nome una parte di nome o tutto il nome di ogni componente della rock band Guns N' Roses. Questo perché uno dei producer era appunto un fan della band e nella creazione dei nomi dei personaggi sono stati inseriti appunto dei tributi a tutti i componenti dei Guns N' Roses. Infatti, se andate a vedere i nomi di tutti i boss, cioè rispecchiano proprio i nomi di tutti i componenti dei Guns N' Roses nel corso della storia appunto dei Guns N' Roses. Andiamo avanti con le nostre original soundtrack. Abbiamo sentito un pezzo molto adrenalinico e appunto, come ho detto prima, rappresentativo dell'intera serie. Adesso ritorniamo con un pezzo molto calmo, sempre da Mega Man X 5, questo si chiama Ending Theme Moonlight Vibing. Un anno dopo, 2001, siamo davanti ad una sorta di paradosso, perché Keiji Inafune chiede scusa per l'uscita di un altro capitolo della serie X, cioè Mega Man X6, sempre PlayStation 1 e PC. Chiede scusa appunto perché voleva finire la serie lì. In realtà il sesto capitolo viene accolto come sempre, cioè da una fornita schiera di fan che lo accolgono e lo vedono come appunto l'ennesimo capolavoro, e da una critica che si scaglia sempre più duramente. Per quanto riguarda il sesto capitolo, ancora di più, perché diciamo i voti sono leggermente peggiori rispetto agli altri due capitoli per PlayStation 1, e questa volta diciamo sembra che se non vedevamo la fine nel quinto capitolo, comunque avremmo visto la fine nel sesto, perché ormai le critiche si facevano sempre diciamo di più, è la produzione di un altro capitolo di Mega Man X interessava sempre a meno persone, esclusi diciamo i fan stessi. La qualità però della musica non cala, questo c'è da dirlo, cioè l'impegno ovviamente è alle stelle anche per questo sesto capitolo. E purtroppo anche qua la trama, come un degno capitolo di Mega Man X, non differisce fin troppo. Abbiamo sempre Sigma come boss finale, e ormai è diventata una sorta di abitudine, nel senso che i fan della saga devono anche aspettarselo, e anche la critica stessa. Differenze nel gameplay non ce ne sono fin troppe. Diciamo che qua nel sesto capitolo viene accentuato di più vengono accentuate di più le missioni in cui bisogna salvare i Reploids, ma per il resto diciamo che la situazione è sempre la solita, è sempre quella. Come detto prima, Zero, morto nel quinto capitolo, rinasce davvero dal nulla, non viene spiegato neanche come, diciamo, si sa soltanto che non era morto nell'ultimo scontro. Questo crea un conflitto, perché poi nella serie di Zero di Mega Man, appunto su Game Boy Advance, Zero rinasce diciamo per una seconda volta, perché quella serie si riferisce ad un'epoca molto più lontana rispetto all'epoca in cui è ambientato Mega Man X, e dunque è un po' un gioco di contraddizioni, ma alla fine è comunque fa un discreto successo, diciamo, viene apprezzato dai fan, e questo diciamo è l'importante. E questo capitolo conclude l'odissea molto criticata, ma nello stesso tempo anche molto apprezzata, della serie X di Mega Man su PlayStation 1. Ci saranno altri due capitoli su PlayStation 2, ovvero Mega Man X7 e X8, che è appunto l'ultimo capitolo di Mega Man, che però farà subire alla serie un radicale cambiamento, perché verrà introdotto anche il 3D. E le critiche la fiocchieranno, perché ovviamente sarà, possiamo dire, saranno due flop, se non per i fan stessi, che comunque continueranno ad apprezzarli. E dunque la serie X di Mega Man sembra essersi conclusa all'ottavo capitolo, ma vediamo un po' nel futuro cosa succederà. Non sembra che ci sia l'intenzione da parte della Capcom di far uscire anche un Mega Man X9. E dunque molti vedono anche il Mega Man X6 come l'ultimo vero gioco di Mega Man X fatto bene, cioè come un vero gioco di Mega Man X. Prima di passare alla seconda parte e parlare dunque di Chrono Trigger, l'ultima original soundtrack proveniente questa volta da Mega Man X6, appunto, si chiama Weapon Center. A fra poco. Era da Mega Man X6 Weapon Stage o Infinity Migenion. Eravamo rimasti negli anni 2000, facciamo un passo indietro, un passone all'indietro, torniamo di nuovo su Super Nintendo, cancelliamo dalla testa le atmosfere, il gameplay di Mega Man X e parliamo di qualcosa di completamente diverso. Parliamo appunto di giochi di ruolo. O uno dei giochi di ruolo più importanti e più apprezzato dai fan, soprattutto della Square Enix, e appunto si tratta di Chrono Trigger. Nel 1995 Square Enix sta ancora progettando, è all'inizio di quello che sarà poi il grandissimo capolavoro su PlayStation di Final Fantasy VII. Il Final Fantasy precedente, cioè il 6, era uscito nel 1994, cioè un anno prima. Nel 95 la Square, a quel tempo ancora Square e non Square Enix, mette in campo un Dream Team fatto di tre personaggi, e io direi anche quattro, dopo spiego perché, di assoluto spicco nel mondo del gaming e diciamo di coloro che producono il videogioco giapponese di quegli anni. Questi tre sono Hironobu Sakaguchi, creatore appunto della serie di Final Fantasy, Yuji Horii, creatore invece di un'altra grandissima serie, soprattutto in Giappone, cioè Dragon Quest, e Akira Toriyama, che è un mangaka famosissimo per essere appunto il disegnatore, lo scrittore di Dragon Ball. Tutti e tre si riuniscono, fanno un viaggio in America e discutono su questo super progetto che hanno in testa da tantissimo tempo, cioè creare qualcosa che non era mai stato fatto prima. E mettere tre menti geniali, come appunto Sakaguchi, Horii e Toriyama, porta a quello che è definito ancora oggi uno dei migliori RPG di sempre, che è appunto Chrono Trigger. Io avevo parlato di un quarto elemento del Dream Team, che è il composer dell'original soundtrack del gioco, che è eccezionale, insomma va a competere con il re dei composer, che è Uematsu, e il composer si chiama Yasunori Mitsuda, che diventa in un certo senso famoso soprattutto per Chrono Trigger, ma non solo. Mitsuda scrive il 90% diciamo della soundtrack di Chrono Trigger, il restante 10% viene scritto invece proprio da Uematsu, e quindi anche il maestro dei composer che collabora in quello che si prefigura come il progetto migliore di sempre. Fu davvero il progetto migliore di sempre. Diciamo che ne parliamo subito dopo la prima original soundtrack che vi faccio ascoltare, proveniente appunto da Chrono Trigger. È un'altra soundtrack abbastanza lenta, si chiama Yearning of the Winds. eravamo rimasti dunque a questo Dream Team che avrebbe dovuto creare l'RPG definitivo. Fu davvero così? Diciamo che a prima vista Chrono Trigger sembra davvero un mix tra Final Fantasy, Dragon Quest e i disegni di Akira Toriyama e dunque un po' di Dragon Ball. Lo stesso personaggio principale, cioè Crono, sembra una copia sputata di Goku da bambino. Alcuni personaggi, soprattutto i mostri, sembrano proprio usciti da Dragon Ball. E si nota sempre il genio di Sakaguchi nel mettere quegli elementi che sono tipici di Final Fantasy. Infatti, come dicevamo a prima vista, il gioco sembra una copia sputata di Final Fantasy. C'è appunto il combattimento a turni, la schermata è sempre ovviamente in 2D. Diciamo, sembra alla fine un altro capitolo di Final Fantasy con un nome diverso. In realtà le differenze ci sono e secondo me sono anche abbastanza sostanziali. Per prima cosa il modello di combattimento è diverso da un Final Fantasy, diciamo, classico, poiché è a tempo. I mostri stessi, i nemici, si muovono all'interno del campo di combattimento e il fatto che si muovino crea dunque una necessità di elaborare delle tattiche di attacco, che devono essere anche abbastanza veloci, perché appunto vi è un combattimento sia a turni però a tempo, nel senso che il primo personaggio, che compreso anche i nemici, che dà il comando, appunto l'azione da eseguire, appunto ha la precedenza sugli altri, quindi è anche una questione di tempistica. In più i nemici, come si sa, in ogni Final Fantasy, tranne proprio negli ultimi Final Fantasy per PlayStation 2, sono invisibili, nel senso si cammina tranquillamente per il mondo e a un certo punto la schermata si fredda e parte il random encounter, cioè il random battle, che è tipico dei Final Fantasy. Qua non esiste il fatto di trovare dei nemici casualmente, perché i nemici si vedono sullo schermo, dunque il giocatore può decidere sia di evitarli quando si può e sia appunto di combatterli e vedere in un certo senso con quali nemici avrà a che fare. Altre differenze sono anche soprattutto il New Game Plus e il tempo. Allora, il New Game Plus è una feature che nei giochi di oggi la Square Enix integra quasi sempre. Consiste praticamente nel ricominciare il gioco una volta che lo si è finito, per mantenere, diciamo, tutte le armi e il livello, tranne le monete, i soldi, e diciamo rigiocare il gioco in modalità, diciamo, un po' più difficile con delle aggiunte. In realtà questa ultima aggiunta del New Game Plus è stata implementata nel remake di Chrono Trigger per Nintendo DS nel 2005, e c'è da dire anche che Chrono Trigger non è soltanto un gioco per DS o per Super Nintendo, ma vennero fatti i porting per molte altre console, soprattutto PlayStation, e vi è anche il gioco per cellulare. È un gioco che sicuramente deve essere giocato da tutti coloro che sia si affacciano per la prima volta al mondo degli RPG, perché comunque non è un RPG troppo difficile da giocare, e sia coloro che si reputano dei grandissimi fan degli RPG, soprattutto quelli giapponesi, cioè è un must da giocare anche per coloro che comunque non apprezzano questa tipologia di gioco. Ciò che caratterizza comunque di più il gameplay di Chrono Trigger sono i viaggi nel tempo. Esistono 7 epoche in cui la storia si ambienta. Queste 7 epoche sono ovviamente fittizie, ma sono in una time travel, diciamo, della trama di Chrono Trigger. Sono l'era preistorica, l'età oscura, il medioevo, il presente, l'apocalisse, il futuro e la fine del tempo. In queste 7 ere il giocatore si può muovere, arrivato a un certo punto del gioco, a piacimento, e ovviamente ciò che caratterizza il gameplay è che un cambiamento anche minimo all'interno di un'epoca, per esempio nell'età, nel medioevo, caratterizzerà poi dei cambiamenti anche comunque abbastanza consistenti nelle epoche successive. Questo ovviamente è un po' il fulcro di tutto il gameplay dell'intero gioco di Chrono Trigger, che ha una durata comunque simile alla durata di qualunque Final Fantasy o Dragon Quest, e dunque, diciamo, è sì una sorta di copia, copia comunque molto ben riuscita, ma ha una sua certa comunque identità come gioco. Abbiamo ascoltato prima Yearning of the Winds, sempre appunto da Chrono Trigger. Ascoltiamo invece Guardia Millennial Fair. A dopo. Quella che avete appena ascoltato è una delle primissime canzoni del gioco, che si sentiranno nel gioco, fa parte di un diciamo una parte importante del gioco, poiché appunto è dove iniziano i viaggi nel tempo per i protagonisti. Come abbiamo detto, vi sono sette epoche, tramite una navicella simile a Highwind per appunto per i Final Fantasy, che si chiama Epoch. Ad un certo punto del gioco si può vagare per tutte le epoche che si vuole liberamente, ma per la prima ventina di ore, se non sbaglio, bisogna trovare il teletrasporto in ogni epoca. Chiaramente la storia è molto lunga, e stare a descrivere ogni dettaglio della storia creerebbe soltanto spoiler e ci vorrebbe comunque un'ora intera solo per la storia, dunque cercherò di essere abbastanza sintetico. All'inizio del gioco abbiamo i tre personaggi che avremo poi per tutto il gioco. I personaggi sono in totale 7. I primi tre personaggi sono Crono, Lucca e Marl, che viaggiano nel tempo, nel Medioevo, appunto, e da lì in poi diciamo inizierà la vera e propria avventura. Ciò che caratterizza anche i personaggi per quanto riguarda il tempo è che ovviamente verranno a far parte del party appunto di gioco tanti personaggi provenienti da epoche diverse, dunque ci sarà in un certo senso una buona differenziazione di personaggi, come vedremo fra poco. Alla fine, lasciando stare il fatto che comunque vi sono una grandissima quantità di viaggi nel tempo all'interno della storia, comunque diciamo il plot principale è abbastanza semplice. C'è questo alieno parassita sulla Terra che è caduto appunto sulla Terra e si nutre delle forme di vita terrestri per crescere sempre di più e dunque distruggerla. Il compito ovviamente degli eroi di Crono sarà, manco a dirlo appunto, sconfiggere questo alieno di nome appunto Lavos, che sarà poi il boss finale. All'inizio del gioco però il boss vero e proprio non è Lavos, ma è un altro personaggio che si chiama Magus, il quale poi, e qua sto per fare un piccolo spoiler, dunque chi non vuole assolutamente spoiler vada leggermente avanti, Magus poi diventerà in realtà buono e potrà essere sia un personaggio giocabile che no, cioè ci sarà un momento all'interno della storia, nel proseguio della storia, in cui il giocatore potrà scegliere se utilizzare Magus o meno. E ovviamente diciamo che personalmente consiglio di accettarlo nel gruppo, perché oltre ad essere un personaggio molto forte, comunque ha dei risvolti nella storia molto interessanti. Appunto, passando dalla storia, che ha il suo elemento principale, come abbiamo detto, nei viaggi nel tempo, andiamo ai personaggi. Abbiamo detto che i personaggi giocabili sono 7. I primi tre che si incontrano praticamente all'inizio del gioco, come abbiamo detto, sono Crono, Marl e Lucca. Vado a descrivere abbastanza velocemente le caratteristiche di tutti i personaggi. Dunque, Crono è appunto il protagonista principale, come nei migliori RPG giapponesi non parla mai, è un protagonista muto, maneggia come arma principale una spada e ha la caratteristica di avere i capelli rossi. Se andate a vedere Crono, come ho detto prima, il disegno di Crono fatto da Akira Toriyama sembra davvero un Goku in versione ridotta, cioè manca solo la coda per essere appunto Goku vero e proprio, ed ha il potere della la magia del tuono. Marley invece è una Bulma più piccola. Anzi, scusate, Lucca, non Marl. Lucca è una Bulma più piccola, amica di Crono, può usare il comando del fuoco, poiché ogni personaggio ha una magia, diciamo, caratteristica, ha un elemento caratteristico magico. Quello di Crono, appunto, è il tuono, quello di Lucca è il fuoco. Utilizzando due personaggi con due caratteristiche diverse si possono fare delle combo di colpi, cosa che per esempio nei Final Fantasy o nei Dragon Quest non si poteva fare. Lucca infatti, diciamo, è la terza donna del gruppo. È un personaggio dai risvolti anche interessanti, perché ovviamente è quella che poi crea all'interno della storia la macchina del tempo, che poi dà il via a tutti i viaggi nel tempo. Marl invece è la seconda donna del gruppo, è la principessa di Guardia, appunto, che è il regno, uno dei regni all'interno dell'epoca del presente. Può usare come elemento principale il ghiaccio. Poi un altro personaggio praticamente fondamentale e molto famoso della serie è Frog. Come dice il nome stesso, Frog è appunto una rana. Un altro piccolo spoiler qui: nel corso della storia si capirà perché è diventato rana e acquisirà la spada praticamente più forte del gioco, che è Masamune. Può utilizzare l'elemento dell'acqua. È un personaggio molto interessante perché ha anche questo modo di parlare come, diciamo, i cavalieri del Medioevo. Siccome è un personaggio che si incontra appunto nell'epoca del Medioevo, ovviamente nel gioco, utilizza un linguaggio arcaico, ed è molto interessante il fatto che comunque i linguaggi dei vari personaggi si adattino proprio all'epoca di cui fanno parte. Il quinto personaggio è Robo, che appunto dal nome, come potete intuire, è un robot del futuro. Essendo un robot del futuro, utilizza un lessico diverso, diciamo, da quello del presente di Crono, e appunto anche questo è interessante, e può utilizzare la magia di elemento ombra. Il sesto personaggio è Ayla, che si incontra invece nell'era preistorica. Utilizza anche lei appunto un lessico molto preistorico, diciamo molto base, diciamo, che sinceramente in italiano non so come è reso, perché io ho giocato la versione inglese, quindi non saprei dire se è così pure in italiano. Però non può usare nessun tipo di magia, ma altre abilità adatte. L'ultimo personaggio, come detto prima, è Magus, che nelle prime 15 ore di gioco è il vero e proprio antagonista principale. Dopodiché, diciamo, tramite alcuni risvolti nella storia, può essere integrato nel gruppo come settimo personaggio, dipende appunto dalla scelta che si fa. Appunto Magus è uno dei più forti personaggi, poiché può utilizzare ogni tipo di elemento magico. Ci sarebbero tanti altri personaggi non giocabili di cui parlare, che caratterizzano molto questo gioco. Non ne parlerò, sia per una questione di tempo, sia perché voglio che scopriate voi, siate invogliate voi a scoprire questo gioco. Andiamo avanti con le nostre soundtrack, sempre ovviamente da Chrono Trigger. Abbiamo ascoltato prima Guardia Millennial Fair, adesso una delle soundtrack più rappresentative del gioco stesso, si chiama Corridor of Time. perché dal Dream Team ci sarebbe stato poi un grandissimo capolavoro, insomma non c'erano dubbi. Infatti Chrono Trigger è questo, un capolavoro a sé stante che non ha dei veri e propri diciamo seguiti. Dico questo perché in realtà si era pensato a un seguito, anche più seguiti di Chrono Trigger, cioè una vera e propria saga di Chrono Trigger, un po' alla Final Fantasy. In realtà questo non avvenne mai propriamente. Dico questo perché qualche anno dopo, nel 1996, in realtà venne commercializzato solo in Giappone una sorta di sequel a Chrono Trigger, che però non aveva lo stesso nome, si chiamava Radical Dreamers. Era una sorta di subquest che rappresentava, racchiudeva anche degli elementi, anche dei personaggi di Chrono Trigger, però lo stesso producer non fu mai fin troppo soddisfatto di questo sequel. Serviva, diciamo, un sequel fatto meglio, non era convincente. Dunque Tanaka, appunto producer di Chrono Cross, che sarà poi il vero e proprio sequel di Chrono Trigger, progetta questo gioco per PlayStation 1, nonostante comunque si distacchi quasi completamente dalla trama di Chrono Trigger. Chrono Cross, diciamo che conclude questa odissea di RPG con viaggi nel tempo, iniziata appunto da Chrono Trigger, e il gioco stesso appunto ebbe un successo pari, se non forse superiore, a Chrono Trigger stesso. In realtà comunque il gioco stesso, cioè Chrono Trigger, ha dei punti deboli, diciamo. Non poteva sicuramente essere un gioco perfetto, anche se per molti si avvicina alla perfezione, o per molti è proprio perfetto. In realtà personalmente ci sono varie cose che non mi hanno convinto in Chrono Trigger. Sono poche, ma ci sono. Per prima cosa, il livello di difficoltà del gioco, per come la vedo io, è molto basso. Ho giocato in molti RPG, soprattutto giapponesi, e forse questo mi ha permesso di arrivare, tra virgolette, più preparato a Chrono Trigger. In realtà è un sentimento comune questo, il fatto che Chrono Trigger in realtà sia un gioco alla fine abbastanza facile per gli standard degli RPG giapponesi, e dunque appunto per questo dicevo prima che è abbastanza accessibile a tutti coloro che magari non conoscono bene il mondo degli RPG giapponesi e vogliono comunque provarlo senza rischiare di trovarsi davanti un prodotto fin troppo inaccessibile e difficile, cosa che può accadere praticamente con tutti i Final Fantasy. Ed è dunque un buon una buona base per iniziare e anche per proseguire. Comunque è un gioco da giocare in ogni caso, sia per i veterani che per i non. Oltre questo, comunque, nonostante il metodo di combattimento fosse abbastanza diverso dagli altri RPG, secondo me tende un po' a divenire abbastanza monotono. Io ricordo la prima volta che ci giocai che il primo, cioè che l'ultimo boss, che è il boss finale, alla fine non fosse neanche fin troppo difficile da prevedere, e bastava utilizzare sempre la stessa serie di comandi alla fine per batterlo senza neanche fin troppa difficoltà. Bastava utilizzare semplicemente una serie di comandi finché il boss appunto non cadeva. E questo un po' per tutti gli altri boss. Una cosa che è un po' da Square Enix, o meglio solo Square, diciamo è atipica. A volte poi, se proprio vogliamo essere pignoli per quanto riguarda i punti deboli, il fatto di viaggiare nel tempo può creare a volte delle confusioni. Ci sono delle volte in cui non viene specificato bene che per viaggiare nel tempo bisogna tornare nel portale appunto del tempo da cui si è usciti, e se non lo si trova non c'è modo di riuscire a capire dove andarlo a trovare, almeno non se lo si gioca, diciamo, se lo si giocava una volta. E per il resto diciamo che basta fare un po' più di attenzione per non perdersi appunto nel tempo, non avere quella confusione temporale che non ci permette praticamente di capire bene qual è la prossima mossa temporale da andare a fare. Però, ripeto, se vogliamo proprio essere pignoli, questo è un punto debole del gioco, ma in realtà è anche un punto forte, nel senso che lo caratterizza propriamente come appunto con appunto questi viaggi nel tempo. Dunque, le cose da dire su Chrono Trigger sono più o meno tutte esaurite. Noi continuiamo sempre con un'altra traccia, sempre un'altra canzone, sempre dall'original soundtrack di Chrono Trigger. Andiamo con invece una soundtrack molto rockettara, un po' come X vs Zero poco fa. Andiamo con Frog's Team, fatta dai Red Wings, che appunto sono una band che fa cover, specializzata in cover di soundtrack di videogiochi. L'abbiamo già ascoltata nel Nerd Show di Final Fantasy IX. Io vi consiglio di andare a vedere il loro canale su YouTube, perché sono grandiosissimi, sono molto bravi. Appunto, questo è dei Red Wings ed è Frog's Team. Bene, i Red Wings ed era Frog's Team. Bene, io spero di avervi invogliato abbastanza a riprendere il Super Nintendo o anche giocarlo emulato e appunto a provare un po' Chrono Trigger, soprattutto se non siete pratici con gli RPG, soprattutto quelli giapponesi. Siamo in chiusura, prima dell'ultima canzone ricordo i contatti. del podcast in generale, la mail nerdocast@gmail.com, il blog www.nerdpodcast.blogspot.com, gli account Twitter, i profili Twitter di tutti noi, quattro, che appunto conduciamo il podcast, sono Nerdfats, Malloman, Wish Freedom e DevilSir92. Abbiamo un gruppo su Facebook, basta scrivere appunto Nerdcast, anche se insomma ce ne sono tanti, e il nostro è quello col simbolo appunto di Nerdcast. Bene, io non registravo da tanto appunto da solo, ormai mi ero abituato ad avere qualcuno con me, quindi se ho fatto degli errori anche grammaticali vi prego di perdonarmi, ma purtroppo è anche il caldo qui che complica la situazione. Se siete arrivati fino a questo punto vi ringrazio. Io vi do appuntamento per, spero, come detto prima, spero fine agosto o comunque le prime settimane di settembre per una puntata lunga con tutti e quattro. Spero vi siano piaciuti questo Nerd Show 3 e Nerd Show 4 messi insieme. Buona estate e tante buone cose. Alla prossima. Ciao. Vi lasciamo con l'ultima soundtrack da Chrono Trigger. Questa è l'ennesima abbastanza lenta. Abbiamo fatto due speciali con soundtrack abbastanza lente, lo riconosco, però insomma spero vi siano stati di gradimento. L'ultima si chiama Peaceful Days, sempre da appunto Chrono Trigger, e noi ci vediamo il più presto possibile. Arrivederci.